importantissimo il rapporto tra l'iniziativa dell'imprenditore, tra l'economia e le condizioni, innanzitutto normative, e poi l'intervento a volte anche fisico di sostegno che c'è da parte di uno Stato efficiente. Qui siamo dietro. Per le riforme c'è spazio ora. Vedete, la cosa che a me, a parte che dice che sono ottimista, io non sono né ottimista né pessimista questa mattina, perché un po' i percorsi della politica li conosco. Sono lì, osservo, oggi c'è una disponibilità dichiarata di quasi tutte le forze politiche a mettersi al tavolino, a mettersi a, per portare il nostro paese prima di un'altra tornata elettorale a due o tre grandi questioni che toccano il cuore della mia riflessione del ritardo dell'efficienza generale dello Stato a tutti i livelli.